Ma faccio il microfono, deve essere. Il microfono che è il cuffo. Però sto usando un microfono normale. Ho fatto la più buona, so, va bene, lascia stare. Brutta, ma che dice? A te che sto parlando la cosa. Ma adesso com'è? Adesso va meglio, appena meglio. Adesso si è la stessa cosa. Tanto, lo dici si senti male? Come se fosse un coso, no? Com'è? Lascia stare così, già va bene. E non toccato niente. Non è quello di ieri, è un altro adesso. Che rimane, tutto cupo rimane, però non si capisce. Può andare, lascia così. Si deve essere cercato, scusate, ho sempre usato un microfono scuro, non è l'originale, ma è della stessa marca. Già va bene lo stesso. I microfoni scuri sono fatti un po'... rimangono un po' a cosa, rimangono. Ora già va bene così. Ma intanto dei sacchi di qualche cosa, vuol dire che o se ne prende l'influenza? I microfoni normali sono così sono. Vengono per occupi, rimangono. No, non è normale. Forse è guazzavolo, però non è amplificato sto. È microfono guazzavolo, però non è amplificato. Va bene lo stesso, già andare. E chi è questo? Devono essere in lontananza, devono essere, no? C'è un po' di propagazione oggi. Cazzo, il sentimento è tutto pieno stasera, eh. E vi do solo una domanda, ma che è su quanto mi dico? Tutti i 7.000 al giorno. Senza andare a noi, figuriamo di noi. Evidentemente la serata buona, certo. Cioè, che c'è la propagazione buona e allora stavo entrando tutti. Ma no, un bel video, Stavo sempre ascoltando lì. È pieno, i canali sono pieni. Io sono con breco, però... A parte che c'è questo breco. Ti sento basso, Costantino, ti sento basso da Semmeri. Da Sassari, la Peroce. Cosa c'è in barra mobile? Chiamare tu la coppia, non la coppia più. È basso arrivo, Arrivo a basso. Ma non ho capito chi è. Avanti, Giammari non l'ha fatta, vai. Costantino, Giammari, Costantino. Da Semmeri era. Guardate che stava scendendo. Ah, Costantino va a scendere. Ma non l'ho mai sentito. Se sento Costantino basso, se non riesco a capire chi è. Adesso si diventa più basso ancora, prima ma è a qualche cosa si capiva, adesso nulla, poi non lo sento più. Io sono in cui vado a vedersi più sotto a qualche posto, ma non ascolto più manchino. Costantino, se ci ascolti, ci salutiamo, a risentirci alle prossime, perché non ti ascoltiamo più. Non ti ho sentito quella della fine, la Faretta, quindi si chiamava. Non l'ho più sentito, ma ho sentito mai tutto. Ma non ti sembra nessuno, no? Zero che zero. Evidentemente non sta entrando, Tanto si è già fatto, si è stufato anche lui. Sicuramente, io non ne abbiamo nessuno, chiaro credo. La voce è pressata, sto. Eh? La voce qua rimane pressata. Sì, sono un po' lento a parlare oggi. Ma deve essere il microfono, Aspetta. posso essere il microfono, tu? Come posso fare, per carità? Sì, vabbè, ti metti le luci, te lo tieni. Beh, bravo, che piatto, se lo faccio, te lo cambia, vabbè. Luci, andiamo. Sì, cosa vuoi fare, so. Sono tutti che piatti, no? Questi c'è. Allora, ma vorrei piatti, non fa? Io gamba, come va? Come va, per carità? Come va? Ho visto che devi farti di qualche cosa. Sì. Se non funziona bene, funziona. Se no, pazienza. Non tanto, ma... Quanto più 5 stanno operando, mi sono trattendo. Come? Se stanno operando, non è più 5. Ah, ecco perché. Questo con 4 non c'è più perfetto. Va bene, vabbè, so. Va bene ugualmente, vai. Fatti saltare ugualmente, vai. Ma adesso come lo ascolti, più forte? Fa un passaggio. Oh, va bene, l'ho aumentato. No, non è più forte, cioè rimane più pressata la modulazione. Ah, pressata rimane, ecco cosa è. Questo che dice. Se non va pressata. No, aspetta ancora. Sì, vabbè. Aspetta che cambio, prova a cambiare il microfono. No, basta, vediamo. Guarda bene adesso. Fa passare di più lungo. Guarda bene, non è tre, prova. Adesso è più forte. MP4 questo. MP4. E qua c'è un impianto di più. Vabbè. Più importante che riesci a avere. E se andiamo a avere, più spesso. Grazie. Andiamo. Bravo. C'è una vocale qua, sa, accende gli spegnelli, si può. Aspetta che provo a spegnere, a vedere un po'. Quasi non ha finito, Sare, devo stare per il cazzo. Ma c'è la signora Marini. E' già suo colore, che me lo sono pensato. Ma vorrò dire, c'è che in terra. Ehi, già lo so. E allora? Tutto a posto? Ciao, sono via. Sono di nuovo. Tutto a posto, te, sì. Niente rosimi. Vabbè. Ciao, ci sentiamo, lui sta a posto, vai, meglio così. C'era lui, portato, c'era uno scanner, lo sentivo, perché era numero 5, lo scanner, lo sentivo, me lo porto, da segno, c'era. Da segno, allora, poi non l'ho sentito più, forse perché non è nel corpo e non l'ho sentito più. Avanti. Buonasera a tutti, Gianni Robbiorun. Buonasera, signor Gianni, avanti. Con un attimo, ci avevo sentito anche... Gio Maria, mi pare che ci sia, e Torre Squalo. Avanti, Gio Maria. Gio Maria si è allontanato di tutti. Avanti, Squaletto. Buonasera, signor Gianni, mi sentito. Buonasera, Gianni, io sono in ritardo perché stavo facendo un contest e stavo cantando, dai. Stavo aspettando l'incoda, stavo aspettando il mio turno e quindi ho dovuto aspettare per cantarmi la canzone. Hai fatto bene. Io non vado per su a cantare, non ti vedo. No, io non ci vado mai io. Per me è molto lontana da me. E allora se ne due. Avanti tu. Ma c'è bella ciò che mi sta sempre. Come sta? Giovanni è entrato, avanti Gianni, e per caso è nascosto sul nostro canale, c'era qualcuno che invece qui non gli piace entrare, capito? Entra solo per comunità in questo canale, comunque va, non mi vuoi stare sul buco, avanti Gianni. Io sono amico di tutti, già lo sai. Io entro da tutte le parti, non ho problemi con nessuno, per cui io entro qua, vado dagli altri canali tranquillamente. Invece, ero così mattino di ascolto, c'era lo scanner, era su 10, adesso di una persona appena chiuso e così via, a quello che piace entrare in occhio, e da solo la comunità, ripresa, siamo antipatici, da 8. Fabbro, non lo so pure. Ha messo per entrare, tra me. Tagliata sopra a bella, però chiacchierata si può fare sempre. Io vedo più brutto e viene nel 10 tranquillamente, quando non c'è nessuno qua viene. Esatto, io vedo come mi piace. Vedo su 10, vedo 3, su 5, tutti quanti a canale. Capo di tra. Io voglio entrare, a me anche se uno non mi piace, io se c'è l'altro non mi piace, lo aspetto. Non mi ha fatto un pochino, capito? Se mi fa nel caldo del freddo. Avanti, vediamo se Giomaria. Giomaria? Lucrezio? Rosmarino, ma in pensione sei andato? E allora, da gennaio? C'è Riccardo il curriculum, dato che mi faccio la sapere per l'autunno. Stavo cercando personale, ancora nulla. Ciao Giomaria, riprendete che sto facendo roba qua. Aspetta, un attimo, dove l'hai consegnato il curriculum? Ecco con la cabina. Ascolta a me, ma la coppia te la lasciano timbrata o no? L'hai consegnato e basta. Coppia timbrata? No, perché se non fa più di tutto, l'avevo tutto collare, capito? Adesso cercati il padrino, vai al comune per casino, se no quel curriculum poi ce lo butti. Avanti già. Tu in gestita, la uscita, se li incontrati entra, pure in chi? Marino, io ne hai portato un altro, non è problema. Ma non hai capito come funziona. Se c'era tutto collato, c'è già tutto collo, c'è a posto. Se c'è che un padrino è meglio, capito? Non c'è qualcuno nel comune, oppure dici che quella persona dove tu hai fatto pubblicità le cose delle votazioni, se no non puoi portarle laggiù, capito? Già lo sai, non c'è solo c'è un sapore, non c'è sistemare, perché stanno entrando cani e pulci. Ho capito, va bene, allora ripeti Giovanni. Ok, capito? Fai così, cerca, vai e chiedi, e fatti faccia di cosa, capito? Faccia di gannare. C'è molta gente, per esempio, di una cacciata che si entrano da assenso sociale. Anche a poco sono entrati, io non c'ero, ma me l'hanno detto. Quattro persone sono entrati da assenso sociale, capito? Tutto qua. Ma bisogna non avere vergogna, quello è un diritto, che rispetto e basta. Avanti tu. Io sempre così. Funziona sempre così, funziona. Cioè, dai. In cos'altro lo fa di ronda e va dentro farà l'altro la ciappa rombati la ciappi perché anche altre giorni a volte mi sono cose sono stati una vicina la persona è l'hanno vestita a cabattoni l'ho mandato a fare lo spaccamento sono tornato non consigliato tutto se ne sono andato no è troppo stressante anche l'orario alle 5 è troppo stressante io se entro mi sono rotto faccio questo non faccio quell'altro ha detto non mi lavora è stato abbandonato sono andato in 15 giorni è veloce di portare la si prende a casa senza fare nulla così pure prima portare lo si prende senza fare niente. Capito, questa era la raccomandata per l'assessore, me lo tengo di stesso, ci ha fatto. Già ho beccato, gli ho detto. Adesso lasci stare, perché guarda, non basta la figura del fatto. Hai visto, questo perché scegli le persone sbagliate. Rimangono in un'unica senza fare nulla, abituati, capito? Con questa cazzo di diritto cittadinanza che ha fregato parecchia gente. Lavoro i soldi e lavoro zero. Avanti so. Volevo senza far nulla volevi. Tu sei bravi a tutti i 31 forni, sei bravi a tutti. Mi ha detto lì. E cosa accomodate per lui? È andato a prendere la vita sul paese. Cioè per me che vedete che mancano di far nulla, prima essere di là senza far nulla. Ma non prende più di più cose. Vedete che ha bisogno di lavorare, che ha tutto l'entusiasmo di farlo e non vengono chiamati. Ma ti immagini? Marino, mi alzi io alle 3:30, chi su chi è? Magari. Fatto che siete anche presto, io stavo sempre, vabbè io secondo che non la facevo, lo stavo molto presto. Alle 5 si entrava per sopra lo spazzamento, sono sempre alle 4 e chi entra alle 2. Ma sei sempre pagato, sempre di notte alle 2, si è pagato il turno, c'è un doppio coso, non capisco. Sono di un sei tagliato, c'hai le sfide, c'hai i riposi, c'hai i pomeriggi, c'hai la raccolta, c'hai il buon impatto, c'è tutto. Quindi, devi chiedere, ma cosa vuoi? Cosa vuoi più? Dai, se non hai voglia pagare, dai, i soldi, senza famiglia, capito? Ciao, signor Marino! Buonasera, buonasera anche a lei. Ciao, Marino, buonasera. Dammi il cuore adesso, non so sentirmi. Con chi sei? Ho appena acceso questo canale. Ma la gente non vuole fare un lavoro così presto, sono i soldi gratis, senza famiglia, è male. Io mi sono preso anche altri mattini, sono stato per lavorare, poi con fare il servizio di candeliere e la cavalcata, hai capito? E poi tutto una tirata, sei pagato, non sei gratis, che appunto non è lavoro che ti ammazza, a chi non lavora che ti ammazza. Bene, Gianni, mi prego, mi ringrazio il signor Giulio. Ciao Giulio, buonasera. Anch'io da te l'altra notte poi senza sentirti. Come stai? Ciao Gianni, io sto bene. E è un periodo che non fuori, come tutti i nostri da lì. Sono diventato qualche giorno fa. Sono diventato, quindi ho fatto un po' di sforzo, c'era qualcuno, ma non avevo un po' di mal di gola, ieri non ho potuto parlare. Ho sentito solo a Eugenio, quando diciamo che quasi un'oretta fa più o meno, poi lui ha chiuso, ho aspettato 10 minuti, ho visto che non riprendeva, perché mi aveva detto che mi hanno telefonato, mi hanno fumato, allora ho chiuso e adesso sono ritornato qua e sono entrato in questo canale. E tu già, tutto bene? Tutto bene, giù. C'è la gamba che mi sta dando il problema, mi sta facendo male da morire di nuovo, quella che mi hanno operato pure in clinico, voglia. Mi sta facendo male da stare, sto facendo le iniezioni, ma mi pare che non mi stanno facendo nulla. E allora, quella che mi hanno operato pure in clinico, l'ultima, là. C'è Luca, poi c'è la Gio Maria che si è sentato un attimo, insomma ci si sa un po', dai. Ciao Gio Maria, dopo un po' di tempo vorrei riascoltarti, ecco un po' di tempo, però ti sento. Ciao Pastore Squaro e ciao a Luca, Luca abbiamo sentito qualche giorno fa, adesso non mi ricordo, ma forse 3-4 giorni fa, all'incirca. Non si è sentato, non so se si è andato a aprire la porta o se al telefono. Ho capito, allora rilancio il cuore squalo. Ciao cuore, tutto bene? E buonasera Giulio, tutto bene. Ciao, stiamo bene. Sono andato perché dura la rete, però già stiamo bene. Vabbè, quindi sono gli acciacchi dell'età. Quello ogni tanto, se vuoi, non diciamo che va meno, però in definitiva ogni tanto c'è un piccolo acciacco che si ripresenta, ma comunque bisogna convivere anche con questo tipo di malattie, chiamiamo le malattie, che poi in realtà non sono proprio malattie, le crisi. Va bene, Luca c'è sì, anche Luca non c'è, allora bisogna rilancio per Maria, ma anche Maria, tutto bene? In pensione da gennaio, ho regalato quasi un anno e mezzo, però va, lasciamo perdere, nonostante le sue pensioni, e mi sono uscito da quel casotto di giù dell'azienda, per carità, ci è il capo cantiere che vuole togliere il sparatto. A lui e chi l'ha messo lì a fare i servizi. La lui proprio sparatto, che non vale un tubo, sta solo facendo un casotto e basta, ma lasciamo perdere. E ti vuole venire già, sai, ma cosa è infiammato con la fase, la capo, la chiucciata. Non lo so, io l'altro giorno ero con il cane e praticamente sono caduto, sono scivolato, sono caduto a sedere a terra. Come i signori sono caduto? Ah, non ho preso nessun colpo, mi faccio ma per male sedere, me lo sono massaggiato e mi è passato subito. Dopodiché hanno cominciato a venirmi questi dolori furti, ho preso degli antidolorifici, ho preso occhio, ho preso un altro antidolorifico che è più forte, quello che mi dava l'ospedale quando mi hanno operato. E non mi hanno fatto nulla, allora ho xerato per farmi voltare nei muscoli con la puntura. E cioè, mi tappano tutto il giorno, non mi fanno avere il dolore tutto il giorno, oppure domani mattina non posso mettere manco il piede in terra, mi fa male da morire tutto il femore, a partire dalla testa del femore fino ad arrivare giù al piede. Ma si continua a fare qualche risonanza, qualche cosa. Io ho sentito questi antibiotici e cose, dopo fa male, meglio di stare. Uno prende per vedere il dolore, però alla fine quando è finito dopo si fa più effetto. Spesso. No, ti rovina il fegato, che è diverso. Vabbè, comunque adesso devo andare dal dottore, perché l'ho chiamato per darmi queste cose, queste punture, me le ho fatte, me le ho fatto quasi tutta la scatola, me ne mancavano tre, mi pare. Però no, si è trasformato in artrosi, dove mi hanno fatto l'innesto nell'osso, che sto pensando a questo. Provare si accorda, anche a me me l'aveva detto, perché io non ti lo sai, sono trovato anch'io al ginocchio, venisco al cartilagine, dopo mi ho fatto fare due punture di cosa, non si chiama, l'ho acquistato io dalla farmacia che lui non ce l'aveva, pagato più il 101, però grazie a Dio per il momento non ho avuto niente, grazie a Dio, e pensare che io la faccio, non sono dico il ciuto cioccolato, ma quando mi vengono i dolori, lo sai, il cioccolato secondo me sono delle stelle dovete, ho fatto una tabellina e mi ha detto, qui sono andato a Trusi, ce l'ha e se lo tiene, non ci vuole fare, avanti giù. Sì, ma allora per quello che è questo dolore, per l'effetto della salute che hai avuto oggi anni, è abbastanza controllare, perché l'operazione che hai avuto il cuore è quella molto importante, l'opera, chiedere la sempre la sua osservazione, qualcosa che gli danno il suo filippo, fai gli anni. E infatti devo andare giù. Quella lì è la scusa, la caduta, però chissà se è quello, perché ti ripeto, non è che abbia avuto dolori fortissimi nella caduta, mi sono rialzato subito, la cosa che ho fatto è guardare se c'era gente che mi aveva visto cadendo per paura di fare brutte figure, però mi sono alzato subito e me l'ho massaggiato un po' il sedere e mi è passato subito il dolore, non c'avevo più nulla, poi capito. Il dolore mi è venuto così, non capisco, mi sono alzato una mattina per appoggiare il piede in terra, questo dolore fortissimo, e che cavolo mi è successo? Non riuscivo manco a camminare, stavo duplicando, mica ero un grillo mi camminando io, facevo un po' di strada. Se l'amico mio quando uscivo mi diceva vai piano, perché io passo svelto, no? Mi diceva vai piano, cavolo, spari i gurrelli. Lo so, tu specialmente tu sei alto come te, hai una forza abbastanza grande, per cui uno che ha le gambe più forti, per così dire, avrebbe un passo più corto e dunque sembra che tu stia correndo, è ragione, quello è vero, purtroppo, comunque fatti visitare gli anni, non ti sta tenendo, va bene che è difficile di trovare uno spazio, un occupamento per farti visitare, perché mettere le tormentine, se ce l'ha farla bisogna farla. Vabbè signori, io vi lascio che mi devo guidare i bacini, ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao signor Marino, ciao Giulio, ciao Gianni, cosa non è più rientrato, ci risentiamo alle prossime, ok, e ciao a tutti. Ciao Arturo, ciao, buona serata, grazie per il QSO, avanti. Ok, ciao Arturo, allora, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo, io anch'io devo fare terapia, tra un po', per cui ancora forse passaggio, e dopodiché, anche la mia dovuta da fare, già da un quarto d'ora, la terapia, però, se si considera come se Maria o Gianni, ancora 5 minuti mi trattengo, poi, vado e prendo i medicinali e farò quello che devo fare. Avanti noi. Benissimo, benissimo, ciao Tobbe, c'è tutto, a domani se coincide c'è la signora. Beh, è così, ciao Giorgio Giulio Gianni, non c'è cosa di carizia, non c'è con Giorgio, ci abbiamo vinto, non c'è niente, proprio a me in eterno, cioè, se hai toccato e mosso qualcosa in eterno, e magari già noi sono qui, capito? E tu all'esterno vedi bene, non vedi nulla, che vai all'interno, io avrei inventato una lata oppure qualche... come si chiama, qualcosa alla gamba, un controllo, e non puoi stare sulla vita per fastidio anche con altri infiammazioni che ti fa male il fegato, ti dai qualcosa ma poi il fegato non risolve, già dato già. Ma lo sai cosa mi fa? A volte mi brucia pure, come se ci fosse un'infiammazione, oltre il dolore a volte ho questo bruciore all'interno. Deve essere roba di muscolatura, che ne so, qualche infiammazione, muscoli, non lo so, qualche cosa del genere. Non è proprio roba di ossa, è un dolore fortissimo, però ti brucia pure questo dolore, ti prende anche a bruciore forte. Meglio, io un controllo non l'avrei fatto fare, una risonanza, guarda, non l'avrei fatto fare, così, lo so che costa, purtroppo, se c'è il dolore, ma signore, anch'io la cosa, purtroppo ho fatto le punture, come si chiama quella capo di cuore, no, non mi ricordo come capo si chiama, mi ha fatto fare una seconda di questa mia vita, come la faccio da qua, io qui ho terminato, non ho, ciò che avrei fatto, ma se da là di 100 passaggi, però sinceramente, fino adesso ci mi tocco, invece di familiari non ho avuto più nulla, capito? E in effetti c'era qualcosa all'interno, però all'esterno non c'è nulla, all'interno c'era qualcosa, capito? Avanti giù. Sì, ma è così Maria, bisogna sempre cercare di confermarsi perché non si sa mai. Poi per gli abbettegiani ha avuto un'operazione molto ma molto importante, non è forse. Ma questa operazione che ha avuto mio fratello, anzi ancora prima di Gianni l'aveva avuto mio fratello, la stessa operazione va di 20 da quelli. E poi mio fratello ha anche la spalla addirittura. Perciò va anche lui diciamo per la spalla qualche piccolo momento. Poi però per il resto non ti consumi, ma se tu fai un lavoro come l'ho fatto io, tirando pedale, piene d'acqua, tirando questo, caricando sul camion, facendo, è normale che poi il fisico è riserva e ti chiede il conto alla fine. Beh certo che sì, ma è così, tu portando pesi così di quel genere, io ho preso, non l'ho portato ugualmente, c'è chi da volume, tu lo sai, ho lavorato la vita da solo, ho lavorato oltre 50 anni, per cui tutto io che dovevo fare, caricare, scaricare, tagliare, fare, noi c'è chi da volume, tu pensa solo un foglio di dentro di multistrattico, pesa 120 kg, eppure è lungo 3,70 m. come stava dicendo Marina poc'anzi, voi devi lavorare senza mi addosso, avanti Marina. E in effetti così, in effetti così. E io, qui in campagna, oh yeah, gli sporti ho fatto, ma tu non ci credi, io ho lavorato anche un paio di mesi, 4-5 mesi, 5 anni, materiale di vita ho lavorato, e qua, ancora c'ho i sacchi da 50 kg, mi hai giocato, lo sai, io dico oggi, quando si aggira gira, non ce la faccio a prendere anche il sacco da 25, c'ho i muscoli nelle braccia che, oh yeah, ha dolori, poi con un giorno molto piccolo qui a casa, sotto, per sfondare la doccia, gli hanno usato le due, sia con l'elettrico e sia con la scoppia usato. So che oggi i dolori ci sono, e me ne tengo, tipo se arriva a scendere, qui non ci arriva, adesso i dolori arrivano, capito? Avanti già. Ma il problema è questo. Allora ne ho operato due di gambe, no? La prima l'ho aperta all'ospedale civile, tutti mi dicevano, ah sono macellare, non fare, lì che ti rovinano. Beh, con l'ospedale civile mi tocco, ma non mi ha dato mai un problema. Mai. Dall'inizio sino ad adesso sono operato già 5 anni e non mi ha dato problemi. Là tra 2 anni mi saranno problemi. Perché? O non è stato fatto bene l'intervento, che ne so. Purtroppo è così, già, purtroppo è così, che cosa ci vuoi fare? E voi ancora siete giovani, grazie a te io che ho una quindicina di anni più di voi, come potete immaginare in che situazione potrei trovarmi. Comunque grazie a Dio diciamo che sto tirando avanti, sto andando bene, sto andando per gli 83, figurati 82 e mezzo per la testa ne ho, non è semplice, va. Dopo aver fatto 80 giorni nella mia vita ho lavorato 62 anni di seguito senza mai fermarmi, nemmeno per quando mi sentivo male, lavoravo ugualmente perché purtroppo ero così, le condizioni allora erano quelle e dovevi fare, non c'è niente da fare, comunque non mi lamento, la verità, e ancora oggi ho sempre voglia di fare qualcosa, anche la sua come sono fatto un lavoretto qui a casa, un lavoretto, addirittura una gabbia al mare, intanto per darti un'idea, mi sono fatto, ho fatto spazio al massale, vado bene, aspetta, adesso mi faccio una gabbia al mare, e ho occupato due pareti, ti puoi immaginare, tutto fatto qui a casa, perciò non c'è problema, la voglia di guardare non mi è mai mancata, la verità, però a un certo punto devi dire basta, sei fisico che ti dice basta. Ok, riprendi Mari, dai, poi faccio l'ultimo passaggio, devo andare per forza a fare terapia. Avanti Mari. Giù, sei giovanotto, dai, sei giovanotto, vogliamo che sia. A quella età devi saltare, oh yeah, di qui a noi. Io ne ho 62, non ho sbagliato da nulla, sinceramente. Sono da piccolino, io da vecchia, vabbè, come io, come tu, come Gianni, abbiamo lavorato da piccolino, dunque ho fatto di tutto. Mentre lavoravo di così per la vita, lavoravo anche a babbo, portavo il bombo, dunque facevo uno e l'altro. E via, va bene, dai. Se lo usiamo piano piano, i dolori chi ce l'ha si sveglia. Avanti già. Tu sei come mio padre, era dovuto dire al medico di smettere, gli ha detto, signor Mario, adesso deve smettere perché c'è un'età importante, ma se lei mi prende il lavoro a me mi trafigge il cuore, gli ha detto. Ce ne fossero di giovani che hanno avuto lavoro come lì. Adesso lì ha finito, ha dato già per smettere, perché si può sentire male, lì è solo, tutto quanto. Alla fine mamma l'ha dovuto convincere, che io la magia ha convincito. Purtroppo è così già. Ok, dai, altri sono detto che mamma, ne approfitto che c'è, è arrivata mia figlia del lavoro, che mi sta chiamando, ok. Ciao già, ben sentito, a domani se con te, ciao Giulio, mi ha fatto piacere sentirti, dai, dopo tanto, anch'io ogni tanto entro, ogni tanto mando un ascolto, perché non mangio più gana, però contro gli amici entrano a saltare, dai. Ok, saluto anche tutti gli ascoltori per me con i miei tiri per il Giulio. Ok Mari, ti ringrazio anch'io per la chiacchierata, dai Mari, anche a me ha fatto piacere di ascoltarti dopo tanto tempo. Io quando sono qua a casa, tempo ne ho tanto, di tanto in tanto magari posso salire, accendo, senza conoscere nessuno, tengo subito all'istante, è inutile stare lì, intanto non so mai la situazione frequente è quella, non c'è problema, però mi fa piacere. piccola e una parete più larga, cioè più sentita. Vabbè, ci sentiamo Gianni, grazie ancora per la chiacchierata e prossime. Ciao ancora Marino, se sei sempre all'ascolto. Saluto a tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao, ciao, riprendi già l'ascolto finale e poi chiudo, vai, devo fare terapia. Ciao Marino, ciao anche attore se c'è ancora, ciao Giulio, grazie per il QSO, ci sentiamo, dai, buona serata. Ok, di nuovo ciao Gianni, alle prossime, ciao di nuovo Marino, chiudo. Ciao Gianni, ciao Giulio, scusate, mi ha chiamato Giulio, ciao a tutti.